porta tua se ne vanno i dolori. Mai che ti svegli d'improvviso e vai così nella notte, mai che poi solo a te tra domande e pensieri, ma il gioco che fai è così e mi piaci sempre così, con tutti i dubbi tuoi non cambiare, te che sorridi ad occhi chiusi. Silenzi tuoi nasceranno canzoni, mai che ti specchi il tuo viso sta così ore ed ore, mai che poi i solitari riescano sempre.